Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Assurdi, beh che fa, tutto cresce e se ne va. Assurdi, beh lui, va bene chi. Beh, non poteva che esserci Pino Daniele per accompagnare il libro di cui vi parlo oggi. Si intitola Magari domani resto, l'ha scritto Lorenzo Marone, pubblicato da Feltrinelli. Perché abbiamo scelto questa canzone di Pino Daniele, Alleria? Perché Alleria è uno dei personaggi presenti in questo romanzo. Coordinate GPS dell'autore, Lorenzo Marone, napoletano, ha avuto molto successo con la sua opera prima, La tentazione di essere felici, che poi è diventato anche un film liberamente tratto dal suo romanzo La tenerezza di Gianni Amelio, e poi il secondo romanzo La tristezza ha il sonno leggero. Di entrambi i romanzi trovate le interviste su radio24.it nella sezione Il cacciatore di libri. Ora arriva questo Magari domani resto, anche in questo caso un romanzo ambientato a Napoli, quartieri spagnoli. La protagonista è una donna, Luce, che ha 35 anni, che fa l'avvocato penalista, ed è una donna, diciamo, molto volitiva, ha un carattere bello forte, però nello stesso tempo si trova ad essere insoddisfatta per la sua vita personale, sentimentale, familiare e lavorativa. Come ti è venuto in mente il personaggio di Luce, Lorenzo? Perché volevo tornare a raccontare un personaggio forte che affrontasse la vita di petto, con coraggio, un po' alla Cesare del primo, no? Perché Harry della tristezza del sonno leggero è invece un quarantenne irrisolto che cammina la vita in punta di piedi, uno che fatica a scegliere. Tra l'altro il mio romanzo più autobiografico, quindi è stato non solo difficile, terapeutico scriverlo, ma anche insomma parlarne per un anno in giro è stato pesante. È quindi stato volevo fatico. Una storia che fosse distante da me. Hai voluto un po' distaccarti. E poi volevo un personaggio forte. Mi piace cambiare, quindi prima un anziano, poi un quarantenne. E mi sembrava adesso una donna, invece. E è cambiato il personaggio, è cambiata la Napoli, perché c'è una Napoli completamente diversa rispetto ai primi due. C'è una Napoli, lì parlo di una Napoli borghese, una Napoli normale, forse anche quello che ha affascinato un po' Amelio. Che ha tratto poi appunto il film, sì. La tenerezza. Invece in questo caso parliamo di una Napoli più popolare, sono i quartieri spagnoli. E Luce ha una situazione familiare anche abbastanza turbolenta. Lei è stata cresciuta dalla mamma, dalla nonna, mentre le figure maschili sono completamente assenti. Il padre l'ha abbandonata quando lei era bambina, e anche il fratello a un certo punto è andato via da Napoli, il fratello Antonio. C'è una scena in cui si vede la mamma che diceva: ma perché hai deciso di fare l'avvocato penalista a Napoli? Dice: non potevi fare la civilista. Ecco, perché Luce intraprende questa strada, e che rapporto ha lei con il senso della giustizia, con il suo lavoro? No, lei è una dal forte senso civico, insomma, grande rigore. Questo è un aspetto che le ha trasmesso, del carattere che le ha trasmesso la mamma, che è una donna severa, bigotta, però insomma una dal grande rigore morale. E lei, Luce, è una così, una donna dal carattere forte, come dicevamo prima, che affronta la vita con irruenza, anzi forgiata dalla stessa città, perché spesso Napoli poi ti costringe in quei contesti a diventare così, fare le spalle larghe. Lei è una che sgomita per affermare la propria identità. Tra l'altro lavora in un ambiente maschilista, ed è una che appunto cerca nel suo piccolo di migliorare le cose, quindi si indigna, è una che non rimane inerme di fronte a tutto ciò che la circonda. Io volevo parlare di una Napoli diversa rispetto al mio solito, e volevo dire come anche in un contesto così difficile, quali sono i quartieri spagnoli ad alta densità criminale, esistono proprio tante luce, tante tante persone per bene, tante famiglie per bene che conducono appunto una vita regolare nella legalità, combattendo ogni giorno, cercando di schivare ogni giorno tutto quello che c'è di sbagliato, di marcia. Insomma, esiste anche un'altra Napoli, ecco. Anche in questo caso, anche in questo romanzo Magari domani resto, come nei precedenti, tu descrivi sempre una grandissima umanità. Io la definirei quasi un'umanità trasversale, perché i rapporti di amicizia, d'affetto, detto, e proprio di umano compatire, si instaurano fra persone apparentemente molto diverse. In questo caso, per esempio, Luce ha due rapporti fondamentali nella sua vita: quello con il suo cane, che chiama cane superiore, Alleria, appunto, da qui per questo abbiamo messo la canzone di Pino Daniele, e un vicino di casa, Don Vittorio. Poi ci saranno anche altri personaggi che entreranno, in particolar modo un bambino. Perché tu scegli sempre di creare questi rapporti intensi fra persone apparentemente molto distanti? Beh, innanzitutto perché credo, io sono uno che forse per il mio trascorso, il mio vissuto, non crede tanto il concetto di famiglia tradizionale e nei legami di sangue, quindi credo molto nel concetto di famiglia in senso ampio, quindi di condivisione, di empatia che scatta fra le persone. Poi c'è sempre nei miei romanzi c'è sempre un pianerottolo, un vicino di casa, perché Napoli da questo punto di vista è un po' forse l'avamposto, l'ultimo avamposto nel quale il concetto di famiglia può essere allargato al pianerottolo, addirittura in questi casi nei quartieri più popolari, al condominio, se non al vicolo e al rione. Mi piace quando si incontrano persone, che poi l'incontro fra queste persone sono sempre persone, personaggi che faticano in qualche modo a vivere, che si portano dietro dei vuoti, delle mancanze, che si incontrano e si aiutano, si sostengono a vicenda. Sono anche incontri con esseri non umani, no? E infatti, perché prima abbiamo citato il cane, perché c'è anche una rondine. Ecco, perché cane superiore? Beh, cane superiore perché Luce lo ritiene superiore a tanti esseri umani con i quali si intrattiene durante il giorno. Io sono un animalista e un canaro convinto, quindi c'è sempre un cane, almeno un cane nei miei romanzi. Sì, che sì. Compare da qualche parte, insomma. Infatti sì. Luce chiacchiera col suo cane quando lo porta a spasso, insomma, e parla molto con questo suo vicino di casa, Don Vittò. C'è un momento in cui la vita di Luce cambia, si trova, diciamo, a un bivio. Lei, appunto, abituata a fare fotocopie in questo studio legale praticamente, viene incaricata di seguire un caso che poi, insomma, in un certo senso le cambierà la vita. Cioè è un caso di un affidamento di un bambino, di una coppia che si sta separando. Kevin, o meglio, a Napoli si direbbe Kevin immagino, Kevin. Perché è accentato in alcune nei dialoghi, quindi avevo immaginato che anche nelle parti narrative dovessimo immaginarlo come Kevin. Sì. Ecco, il papà di Kevin è un boss della Camorra, però la Camorra entra in modo solo tangenziale in questo romanzo. Perché? Perché io nei miei romanzi non parlo mai cerco di raccontare una Napoli diversa. L'ho fatto nei primi due raccontando la Napoli normale, perché credo che sia già una città sovraesposta da questo punto di vista, perché mi piace raccontare le vie di mezzo, non solo il nero. Anche qui, che ho ambientato la storia in un quartiere difficile, l'ho fatto a modo mio, come dicevo, con una storia comunque piena di speranza, di luce, di allegria e di primavera. Ovviamente ambientare una storia, parlare dei quartieri spagnoli, non nominare nemmeno la Camorra, ci saremmo raccontati delle favole, quindi la Camorra c'è nella figura di questo padre, ma rimane comunque all'atere. Ecco, nel momento in cui Luce deve occuparsi di questa causa, questo bambino Kevin le sconvolgerà un po' la vita emotiva, senza entrare nei dettagli della trama, però veramente che cosa provoca questa cosa in Luce? Beh, lei, questo bambino la conquista, risveglia in lei poi una serie di dicevo prima, no? Di tutti i personaggi vuoti, le mancanze, lei, il padre l'ha abbandonata, insomma, una cresciuta con e fra donne, con una vita sentimentale abbastanza difficoltosa. E l'incontro con Kevin risveglia lei anche dei desideri di maternità, perché poi i miei sono sempre tutti personaggi che si trovano a un bivio, a dover scegliere, a dover trovare il coraggio di cambiare strada, cambiare vita, prendere in mano la propria vita. Alcuni lo fanno tramite una scelta, quindi affrontando di petto, altri quando non scegli, la vita sceglie per te grazie a degli incontri e degli eventi. Il caso di Luce, la vita le pone davanti questo incontro con questo bimbo che, come dice lei, le arrevota, come si dice a Napoli, la vita. Ecco, a proposito dell'uso del napoletano, avevo segnato alcune cose su questo romanzo. Il capitolo che è intitolato A Freva. A Freva, sì. Si chiama Freva ed è quel particolare sentimento tutto partenopeo con il quale si descrive una sensazione di malessere, che non è solo e semplicemente, come da traduzione, febbre, ma qualcosa di più violento e viscerale. E poi, appunto, Luce, parlando di se stessa, dice: questa maledetta sensazione con la quale convivo spesso, che di mio sono già abbastanza frevaiola. Allora, questo Questo termine, avere la freve, la freva, indica anche un aspetto caratteriale profondo di Lucia. Perché lei è così frevaiola? Sì, e che cosa vuol dire? La freva è un... possiamo anche definirla in modo più... è un'energia, è l'inquietudine interiore alla fine che ti porta questa... anche, poi si dice, l'arraggio, la rabbia. La rabbia che però lei poi riversa in modo positivo, perché comunque, come dicevamo prima, è una che combatte per salvaguardare i propri spazi, la propria vita. È un senso di inquietudine che ti porta, spesso anche viscerale, che con la quale noi napoletani siamo costretti casomai a vivere, perché costretti a dover anche subire determinati accadimenti, determinati forme di violenza, di per il fatto stesso di vivere nella città. Sì, e poi sì, certo. E poi, comunque, dicevo prima, è una donna che il suo vissuto la porta comunque a essere quello che è, cioè comunque a portarsi dietro tutta una serie di rabbia nei confronti di quello che è stato, che quindi riversa poi anche nei rapporti di tutti i giorni, insomma, è una che non le manda a dire, Luce, una che, che ha la risposta e la battuta pronta. Questa poi è una figlia di Napoli, dei quartieri di Napoli, la classica femmina napoletana che appunto è dicevo prima, è forgiata proprio per questo, è fatta di rabbia dettata dal suo trascorso, è fatta di spalle larghe che la aiutano a tenere botta. Si capisce che Lorenzo Marone è profondamente innamorato della sua città, Napoli, con la quale evidentemente vive anche dei contrasti inevitabilmente. E infatti alla fine dei ringraziamenti c'è un ringraziamento speciale per Napoli, perché tu scrivi: e per ultimo ringrazio lei, la mia città, perché in quanto a resistere e tirare avanti non prende lezioni da nessuno. Esiste allora questo senso di lotta, di essere combattivi, di questo senso di napoletanità? Sì, sì, esiste. Tra l'altro la dedica è a quelli che resistono e tirano avanti. Beh, il tema centrale del romanzo è proprio l'andare o il restare, ma non è solo inteso in senso geografico territoriale, perché poi sono tutti personaggi che si interrogano sulla stessa Luce, ha questo continuo dilemma, dubbio se andarsene, se restare, eccetera, ma è anche proprio un discorso personale, introspettivo, cioè restare intesa come resilienza, cioè come resistenza, come se resto, per scelta o per obbligo, lo devo fare nel migliore dei modi, quindi cercare di rendere migliore ciò che ho, cercare di curare ciò che ho, di scorgere ciò che ho, di vedere il bicchiere mezzo pieno, di lottare per quello che ho e quindi di come dicevamo prima, per cercare di rendere migliore quello che è il mio piccolo pezzettino di mondo. Luce è una che fa così. È Napoli in questo, insomma, insegna. Grazie a Lorenzo Marone, ora in libreria con Magari domani resto, pubblicato da Feltrinelli. Grazie a voi. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Un complicato atto d'amore è il romanzo scritto dalla scrittrice canadese Miriam Taves, pubblicato in Italia da Marcos y Marcos. In realtà si tratta di una ristampa di un romanzo che era stato pubblicato nel 2004 da Adelphi. Allora, Miriam Taves è una scrittrice canadese che è cresciuta in una comunità mennonita, è una comunità religiosa di stampo patriarcale. In queste comunità è vietato guardare la TV, leggere libri, ascoltare musica rock, bere alcol, fare sesso e così via. Miriam Taves racconta di questa appunto comunità mennonita opprimente in molti dei suoi romanzi. Per esempio ne aveva parlato in I miei piccoli dispiaceri, nel quale tra l'altro raccontava una vicenda autobiografica drammatica, il suicidio della sorella, anche suo padre si era ucciso. Di questo romanzo avevamo parlato un po' di tempo fa, quindi potete trovare l'intervista in podcast su radio24.it nella sezione Il cacciatore di libri. Ma veniamo invece a questo altro romanzo, Un complicato atto d'amore. La protagonista è una ragazza di 16 anni, Nomi, vive da sola con il padre perché la sorella è fuggita con il fidanzato, è riuscita a scappare appunto da questa comunità opprimente. La madre invece è stata cacciata, è stata in fondo scomunicata. E quindi questa ragazzina vive questo contrasto forte fra la voglia di andar via e invece il senso di attaccamento sia al padre che alla comunità. Anche in questo senso questo è un romanzo in parte autobiografico. La caratteristica di Miriam Taves è che racconta di vicende anche drammatiche, come era il caso per esempio del suicidio della sorella nel romanzo I miei piccoli dispiaceri, ma anche, diciamo, vicende drammatiche in questo Un complicato atto d'amore. Dicevamo, la caratteristica di raccontare sempre tutto con una certa ironia e anche una punta di umorismo. La parola a Miriam Taves. No, Nicole, she manages to live, to survive, partly because she had an older sister. Nomi riesce a sopravvivere in parte perché ha una sorella maggiore, Tash, che trova il modo per portare in casa libri, dischi, musica, rock and roll, e in parte grazie alla sua fervida immaginazione, per cui sogna di vivere a New York, di passeggiare e incontrare Lou Reed, e questo la aiuta a sopravvivere in un contesto di restrizioni. You know, she understands this culture of control and how very little freedom she has. All'inizio del romanzo troviamo però Nomi da sola col padre. Lei proprio racconta in prima persona, dice: manca metà della famiglia, la metà più bella, perché la sorella è fuggita con il fidanzato appunto da questa comunità, la madre sparisce, poi si capisce che è stata, diciamo, che ha ricevuto una sorta di scomunica dalla comunità mennonita. Nomi vive con grande contraddizione questa situazione, è molto legata a suo padre e alla famiglia, ma nello stesso tempo vorrebbe scappare. Come vive questo contrasto? Nomi, it's true. Nomi is very close to her father. She feels very protective of him because her mother has left and her sister has left. It's almost a reversal where Nomi è molto affezionata al padre. Verso di lui è molto protettiva perché sua madre e sua sorella sono fuggite. È quasi come se i ruoli si fossero invertiti ed è lei a prendersi cura di lui e non il contrario. Nomi vorrebbe lasciare la comunità mennonita e raggiungere la madre e la sorella ovunque esse siano, ma in realtà, anche se lei non lo sa, ciò che vuole davvero è la famiglia di nuovo riunita. Questa comunità è l'unica realtà che lei conosce, per cui l'idea di lasciarla è spaventosa e affascinante allo stesso tempo. E poi Nomi non lascerebbe mai suo padre Ray. Lui lo sa, ma sa anche che la figlia, per salvare se stessa, dovrà lasciare la comunità. To realize that really Nomi, in order to save her soul, has to leave the community. A un certo punto nel romanzo Nomi dice: questo paese è così serio, così silenzioso, mi fa impazzire il silenzio. Chissà se di silenzio si può morire. C'è una forza invisibile che preme di continuo sulle nostre parole come una mano su una ferita aperta, zampillante. E poi dopo qualche riga aggiunge: noi siamo mennoniti, per quel che ne so, è la sottosetta più sfigata a cui si possa appartenere a 16 anni. Anche tu avevi la stessa sensazione, cioè di appartenere alla setta più sfigata, e il silenzio che effetto ti faceva? Yes, absolutely. There are many similarities between Nomi and myself. Not everything, but certainly the community that she lives in. Sì, assolutamente. Ci sono molte similitudini tra Nomi e me. Non tutto, ma sicuramente la comunità in cui lei vive è simile a quella in cui vivevo io. Una comunità molto religiosa, molto tranquilla e silenziosa, specialmente le domeniche, dove l'unica cosa che potevi fare era andare in chiesa. E non era solo un silenzio letterale, ma anche un silenzio dei sentimenti. Questa cultura controlla qualsiasi espressione di emozioni, che sia rabbia, tristezza o esuberanza. Tutto viene soppresso secondo l'idea fatalista che tutto quello che accade sia volontà di Dio. Non era ammissibile alcun tipo di emozione, se non il silenzio, sia nella città, ma anche nelle coscienze. So silent, so literally in the town, but also, you know, in our minds. Sempre proseguendo nella lettura virtuale così del romanzo, a un certo punto Nomi dice: da bambina avevo paura del buio e una notte mi è sembrato di vedere Gesù ai piedi del letto con una mazza da baseball pronto a fracassarmi la testa per via di una bugia che avevo detto quel giorno a Rhonda Enzel. Mi ero dimenticata di pentirmi e di chiedere perdono. Il senso di colpa torna spesso nei personaggi dei tuoi romanzi, in particolar modo di Nomi. Tu ti senti ancora schiacciata dall'imprinting che ti ha dato la comunità mennonita o sei riuscita a liberarti dall'ossessione del senso di colpa? I think that this is a lifelong struggle for me to constantly Penso che per me sia una battaglia che durerà per tutta la vita, il dover costantemente avere a che fare con il senso di colpa. So di essere colpevole per il semplice fatto di essere un essere umano. Avere questo senso di colpa per qualsiasi cosa è dannoso per la mia salute, non mi fa bene, ma è una conseguenza dell'aver ricevuto un'educazione in mennonita. D'altro canto, sento che è passato abbastanza tempo da allora. Sono cresciuta e capace di vedere più chiaramente gli aspetti positivi di questo genere di comunità e non solo quelli negativi. To see more clearly the good aspects of this type of community and not only the negative qualities. Un elemento positivo del vivere in una comunità mennonita? Quelli negativi, insomma, ci appaiono anche abbastanza chiari. One thing that I miss very much is that sense of community. And of course this could also be perceived as negative, where everybody knows you. Una cosa che mi manca moltissimo è quel senso di comunità, che può sembrare anche negativo. L'idea che tutti ti conoscano, tutti sappiano da dove vieni e chi è la tua famiglia. Oggi vivo in una grande città, Toronto, e quando mi trovo a camminare per le strade non mi capita di incontrare persone che conosco. Questo mi manca. Quando ero piccola potevo andare in qualsiasi casa e mi avrebbero offerto del cibo e accoglienza come se tutta la città fosse casa mia. Un altro aspetto che mi manca molto è il senso dell'umorismo mennonita, gentile da un lato e molto ironico e sovversivo dall'altro. Proprio perché le regole sono tanto opprimenti, l'umorismo è oltremodo esagerato. Mi manca anche il cibo, per quanto possa sembrare scontato, e anche l'idea di sforzarsi per essere buoni e genuini, cosa sulla quale anche i mennoniti hanno fallito nonostante lo sforzo, visto che, sfortunatamente, anche in questa comunità c'è molta ipocrisia. And that there is an attempt to be genuinely loving. Unfortunately, there is a lot of hypocrisy as well. A proposito di senso dell'umorismo, nei tuoi libri c'è sempre molta ironia. C'era anche molta ironia nel romanzo I miei piccoli dispiaceri, che comunque raccontava una storia vera, molto molto drammatica, perché parlava di come tua sorella era arrivata al suicidio. Anche tuo padre si è ucciso e anche di lui hai scritto nei tuoi romanzi, non ne hai fatto mistero, insomma. Che cosa rappresenta per te l'ironia? È un modo di affrontare, di attraversare questi dolori della tua vita? I think I would say that type of irony or I could say a way of looking at the world. Penso che quel tipo di ironia o quel modo di guardare al mondo serva per rimodellarlo. Da un lato, prendere la mia esperienza tragica, come il suicidio di mio padre e di mia sorella, e mettere distanza attraverso l'ironia. Ma dall'altro lato, anche avere la capacità di guardare in faccia il dolore, perché credo sia importante affrontarlo, anche per il lettore che cerco di prendere per mano e accompagnarlo in questa oscurità per ritrovare la luce. Per fare ciò, devo dare un tono ironico al romanzo, cosicché il lettore si senta al sicuro per arrivare fino alla fine. Credo che oscurità e luce vadano di pari passo. Serve l'una per poter dimostrare l'altra. Ecco perché serve un tono ironico sia per me che per i miei lettori. My ironic style, my ironic tone is definitely something that helps me, but also my readers. E questa era Miriam Thaves, autrice di Un complicato atto d'amore, pubblicato in Italia da Marcos y Marcos. Il cacciatore di libri. Lei si chiama Kathleen Shine, è una scrittrice americana, forse ricorderete uno dei suoi bestseller, La lettera d'amore, che era uscito in Italia nel 1996. Ora è in libreria con Le cose cambiano, pubblicato da Mondadori con la traduzione di Stefano Bortolussi. È un romanzo sulla vecchiaia, insomma, perché la storia di Joy, una donna, insomma, arrivata ad una certa età, che purtroppo rimane vedova, ed è la storia di questa Joy e dei figli, Molly e Daniel, che all'improvviso, diciamo, non sanno più come gestirla dal punto di vista psicologico, ma anche pratico, quotidiano, perché Joy è stata sempre il punto di riferimento di quella famiglia, quindi si ha un po' un ribaltamento dei ruoli. Ma perché Kathleen Shine ha deciso di scrivere ora un libro sulla vecchiaia? Sentiamola con la traduzione fatta in presa diretta da Anna Lubin. Quando ho iniziato a scrivere questo libro, in realtà non era questo il contenuto sul quale volevo soffermarmi, però poi mi sono successi alcuni avvenimenti nella mia vita personale, per cui mi sono venute in mente delle riflessioni che ho voluto riprendere nel mio libro. Peraltro, ogni volta che incontravo gli amici, mi rendevo conto che l'invecchiamento, i problemi dei loro genitori erano l'argomento più gettonato. E quindi a questo punto, pur essendo un argomento molto doloroso, sulla stessa natura però ha anche degli aspetti umoristici, ho deciso di prenderlo come argomento del mio libro. Ed è per questo che mi sono veramente sentita di scriverlo così come poi è riuscito. Possiamo dire che il personaggio principale è Joy, questa donna, insomma, di una certa età, poi non svegliamo naturalmente troppo sulla trama, però mi ha colpito l'incipit di questo romanzo. Gli scrittori pensano moltissimo all'incipit, a come iniziare un libro. Molly Bergman si trasferì in California e a sua madre si spezzò il cuore. È l'indicazione che c'è un rapporto molto profondo fra Molly e sua madre. Perché ha voluto iniziare mettendo, come dire, accendendo una luce su questo rapporto madre-figlia, che poi diventa anche conflittuale ma fondamentale nella vita di entrambe? Well, I think in some ways that's what the book is. That's one of the most important things that the book is about. Questo veramente è il senso che ho voluto dare al libro, è la cosa più importante. Poi, una volta concluso il libro e rileggendolo, mi sono resa conto che esso parla della distanza, la distanza tra le persone che si amano, e non mi riferisco solamente a una distanza geografica, al fatto che Molly sia in California e sua madre sia a New York, ma dalla distanza che può esistere tra le persone che si vogliono bene, magari perché uno è preoccupato, oppure c'è uno che ha più bisogno degli altri, o perché qualcuno è lontano. Questo fondamentalmente sono i rapporti familiari che io ho voluto studiare nel mio libro. And that was a lot of what I was exploring in the book. In questi rapporti familiari vediamo innanzitutto la coppia, diciamo, di anziani, Joy e Aaron. Aaron è ammalato di demenza senile, anche se Joy non vuole neanche sentir pronunciare la parola, né tantomeno Alzheimer. Poi ci sono naturalmente i figli, Molly e Daniel. E c'è un episodio che scardina questi rapporti, ossia la morte di Aaron. È una cosa che scombussola completamente la vita di Joy. In quel momento lei diventa, agli occhi dei suoi figli, non più una donna indipendente, volitiva, determinata, ma quasi una donna fragile che ha bisogno di aiuto. E lei non accetta che i figli la vedano così. Perché? È una forma di pudore o è proprio un aspetto caratteriale? Well, I think it's very difficult to go from to sort of turn quickly from being an independent. Io credo che sia difficile passare attraverso un cambiamento così veloce. Joy prima era una persona indipendente, era la figura portante di una famiglia. Poi, a causa di problemi di salute o perché è diventata vedova, questo ruolo è completamente cambiato. Lei è diventata, non dico la parte meno importante, ma una parte debole di questa famiglia. Prima Joy si trovava al centro della famiglia, ora è diventata una persona che ha un ruolo marginale, una persona che ha bisogno, ed è una cosa che non si augura naturalmente a nessuno. Quindi, oltre al lutto e al fatto che i suoi figli la vedano con occhi diversi, c'è il fatto che per lei questo è doloroso, cioè non lo accetta, perché proprio è così la sua personalità, e peraltro una sensazione cui ogni persona ha diritto come essere umano. That's her personality, and I think her right as a human being as well. Lei come scrittrice è famosa per saper indagare in profondità l'animo umano, l'animo dei suoi personaggi, lo conferma anche in questo romanzo, dove appunto si analizza molto bene l'invecchiare di Joy, ma anche i sentimenti dei figli che vedono la propria madre invecchiare e il doversi prendere cura della propria madre. Però nello stesso tempo lei ci mette sempre un pizzico di ironia nei suoi romanzi. L'ironia è per lei, come dire, un modo di sdrammatizzare o è un modo in cui Kathleen Shine, scrittrice, si distacca un po' dai suoi personaggi per non essere troppo coinvolta? Well, I hope that the humor is more of an expression of the situation. Io mi auguro che l'ironia, questo senso dell'umor, sia una forma di espressione nelle diverse situazioni. Io non riesco a farne a meno, il mio modo di esprimermi è in fondo la mia strategia di avvicinarmi al mondo. Quando scrivo di cose tristi, utilizzo proprio questo atteggiamento di ironia e penso addirittura che ci stiamo avvicinando in questi momenti un po' alla commedia, perché per me usare l'ironia e l'umorismo è un po' come fare la funambula, cioè avere qualcosa che mi aiuta a stare in equilibrio tra la tristezza e l'umorismo, e quindi è un modo, se vogliamo, di smorzare delle sensazioni tristi. Naturalmente questo libro ha trattato delle questioni che sono molto vicine al mio cuore. Io con questo non voglio fare della psicanalisi, perché non mi piace essere psicanalizzata e tantomeno sono brava a farlo. Penso che per i miei personaggi questa ironia, questo senso dell'umorismo, sia in fondo il loro modo di stare nel mondo e di reagire alla tristezza. Their world unfolds even at the saddest moments. At least that's what I hope. That's how I hope the humor works. Uno dei suoi personaggi, Molly, appunto la figlia di Joy, scopre a un certo punto della sua vita di essere lesbica. Aveva avuto un marito e poi invece capisce che si è innamorata di una donna. Fra gli scrittori americani mi viene in mente per esempio David Levitt, che è considerato uno scrittore post-gay, Michael Cunningham e così via. Per tanti anni, se uno scrittore parlava di un personaggio gay, doveva essere il centro del romanzo, tutto doveva girare intorno a questo, perché si parlava della problematica dell'essere omosessuale. Invece adesso si nota di più che c'è un personaggio che può essere etero, può essere gay, cioè è abbastanza indifferente la sua identità sessuale. In questo senso lei si riconosce, c'è stato un progresso anche nella letteratura americana e non nel descrivere l'omosessualità, nel parlare di omosessualità? Well, I do think there's been progress, partly because there's been enough written now. Credo di sì, perché ormai c'è abbondantissima letteratura sull'argomento. È vero che in passato, quando si parlava di una figura gay omosessuale, questa figura era al centro di ogni romanzo, ma fortunatamente i tempi sono cambiati e quindi non occorre più fare della figura omosessuale il personaggio centrale di un romanzo, né tantomeno usarla per parlare di omosessualità. Questo si può dire per l'amore di Molly, appunto, per una donna, è un amore che è importante, in parte anche per compensare probabilmente il lutto dopo essersi spostata in California. Quindi questo amore non è al centro del romanzo, è semplicemente un personaggio del libro che invece di essere sposata a un uomo è sposata e ama una donna. Quindi io sono molto contenta di vivere in un'epoca in cui sia possibile scrivere e parlare di omosessualità in questo modo. I feel very lucky that I live in a time when that's possible to write and possible to live as well. E questa era Kathleen Shine, che ci ha parlato di Le cose cambiano, pubblicato da Mondadori. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Vi ricordo che potete trovare tutte le puntate d'archivio del Cacciatore di Libri su radio24.it e per essere sempre aggiornati potete seguirmi sia su Facebook che su Twitter. Una buona lettura a tutti, da Alessandra Tedesco.